Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti, ben ritrovati a Focus Economia. Buonasera da Deborah Rosciani. Siamo pronti a rifare il punto della giornata economico-finanziaria. Un 3 gennaio, esattamente come abbiamo detto ieri, 2 gennaio, giornata indimenticabile per i mercati finanziari, e anche oggi il copione si replica. Non se la scorderà facilmente questa giornata Wall Street, perché gli indici sono in ribasso molto pesante anche oggi. È un po' colpa della Cina, che ha fatto sentire gli effetti del suo rallentamento sui conti di Apple, quindi tecnologia in forte tensione e indici in ribasso molto importante. Dow Jones meno 2,60%, Standard & Poor's meno 2%, abbiamo dei ribassi anche sul Nasdaq di oltre 2,5 punti. Tutto questo ovviamente condiziona anche l'Europa, un'Europa che era già partita male questa mattina, poi qualche indice per la verità ha provato a risollevare la testa, in particolar modo Milano, che è arrivata a guadagnare quasi 0,5 punto percentuale per poi riperderlo tutto adesso. Il calo del FTSE MIB dello 0,43%. Apple a Wall Street perde 9 punti percentuali e gli vanno dietro tutti i titoli della tecnologia, ma soprattutto tutti i titoli di quelle società che forniscono Apple, che risentiranno in prospettiva di questo 2019 che si preannuncia molto difficile per questo gruppo, ma non solo. STM, tanto per fare un esempio, a Piazza Affari scende di quasi 12 punti. Ne parleremo tra un po' facendo il consueto punto di borsa, ma faremo anche un'analisi un po' più dettagliata su queste vicende americane che ancora una volta stanno dando un po' la direzione, la guida ai mercati finanziari internazionali. Di tutto questo, peraltro, oggi ha consentito di lasciare da parte un altro tema invece molto importante, perché sta ampliandosi di nuovo lo spread fra BTP e Bund, 273 punti base. Già molti ascoltatori stanno cominciando a chiedere come mai è risalito. Non ci sono dei fatti italiani particolari, sicuramente c'è la fine delle QE, del quantitative easing della Banca Centrale Europea, ma c'è una riduzione importante del rendimento del Bund tedesco. E questo perché? Perché in uno scenario così complicato per il mercato azionario, gli operatori vanno subito a cercare beni rifugio, investimenti sicuri, e il titolo obbligazionario, l'obbligazione, il titolo governativo tedesco è naturalmente un bene rifugio per eccellenza, e quindi anche questo oggi ha determinato l'ampliamento del differenziale di rendimento fra Italia e la Germania sul titolo decennale. Per la verità, gli operatori nelle ultime ore hanno ripreso anche a cercare l'oro, infatti le quotazioni sono salite, ne parleremo tra un attimo. Gli altri temi che affronteremo in questa puntata di Focus Economia: parleremo un piccolo punto della situazione su Banca Carige, ci sono delle dichiarazioni degli attuali commissari straordinari nominati ieri, decisi, stabiliti dalla Banca Centrale Europea, che ha mandato in amministrazione straordinaria appunto la Banca Ligure. Parleremo di calcio, non tanto ancora una volta dei titoli della Juventus, che pure oggi hanno avuto un forte balzo in avanti, poi adesso in realtà hanno ridotto la loro prestazione più 0,09%, ma ritorneremo, ne avete sentito un po' anche una piccola anticipazione nel giornale radio che abbiamo mandato in onda poco fa. Gianni Dragoni stamattina per il Sole 24 Ore ha fatto un punto della situazione molto curioso ed interessante sui calciatori che valgono di più in assoluto. Anche quello è un mercato su quale noi non possiamo investire, ma sul quale possiamo solamente tifare, però insomma sentirete di cifre assolutamente incredibili, che non sono solamente quelle che conosciamo, che attengono al calciomercato e alla compravendita da una società ad un'altra appunto di questi atleti. E poi parleremo del reddito di cittadinanza fra un istante, perché sui giornali di questa mattina sono apparsi tutti i dettagli grazie ai quali si conoscono appunto le condizioni con cui sarà possibile, in base alle quali sarà possibile dal 1 marzo cominciare ad inoltrare la domanda per ottenere questo strumento di sostegno al reddito. Si potrà fare questa domanda da quando terminerà il REI, il reddito di inclusione. Ci sono appunto tutti i criteri che dovranno essere rispettati per poter fare questa operazione, per ottenere appunto questa prestazione, ma soprattutto devono attrezzarsi, e questa sarà la prima fase importante di questa operazione. Tutti i centri per l'impiego che dovranno dotarsi, come sapete, di nuovi operatori, nuovi funzionari, i cosiddetti navigator, i tutor che accompagneranno le persone che otterranno questo sostegno anche a una reintroduzione nel mercato del lavoro, nel tessuto sociale e non solo. Per commentare insieme a noi questi temi, come sempre, ricevo volentieri i vostri messaggi ed ecco qua che parte subito la considerazione sulla pronuncia di Apple o Apple. All'americana si dice Apple, potete lamentarvi quanto volete, chiedete alla nostra Giulia Crivelli che è assolutamente un'autorità in materia. Io la dico così e poi se vi fa arrabbiare ditelo come volete, intanto la società è quella. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi che riceviamo attraverso l'SMS ma anche attraverso WhatsApp. Barisoni torna lunedì, non vi preoccupate, qualche giorno di vacanza meritata anche per lui. Noi adesso partiamo con le notizie in breve. E cominciamo proprio con le notizie americane. Vabbè, intanto, come dicevo prima, l'oro torna a crescere, siamo in termini di quotazioni ai massimi da sei mesi a questa parte, $1,287 l'oncia. I timori per la crescita globale e la debolezza dei mercati stanno spingendo il tradizionale bene rifugio verso questo livello, mentre oggi il petrolio ha ripreso a scendere, $46,3 al barile in media a New York. Dagli Stati Uniti si insedia il nuovo Parlamento, che è frutto della ricomposizione politica determinata dalle elezioni di metà mandato di qualche settimana fa. La speaker della Camera designata, Nancy Pelosi, ha annunciato che i democratici attenderanno e valuteranno gli esiti dell'inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller sul Russiagate prima di decidere se avviare l'impeachment, cioè la messa in stato d'accusa del presidente americano Donald Trump. Non dovremmo fare l'impeachment per motivi politici e non dovremmo evitare l'impeachment per motivi politici, ha detto la Pelosi in un'intervista a NBC nel giorno in cui appunto dovrà essere rieletta alla sua carica. Intanto il tesoro americano ha incassato miliardi di dollari dai dazi e stiamo facendo pagare la Cina e altri paesi che non ci hanno trattato in modo giusto. Allo stesso tempo stiamo facendo bene nelle trattative commerciali in corso, ad un certo punto andava fatto. È il nuovo tweet di giornata, tra i tanti, di Donald Trump, che è tornato a parlare delle trattative commerciali dopo che Apple appunto nelle ultime ore ha rivisto al ribasso le stime sui ricavi in seguito al rallentamento dell'economia cinese e alle tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina. Domani viene diffuso il dato sulla disoccupazione americana di dicembre, come sempre viene divulgato il primo venerdì del mese, si riferisce al mese precedente, ma nella giornata prima della comunicazione del dato ufficiale del Ministero del Commercio, se non ricordo male, è l'agenzia privata ADP a diffondere un dato anticipatore, che è quello che si riferisce all'andamento delle nuove assunzioni nel settore privato, settore che ha creato in dicembre 271.000 posti di lavoro, un dato superiore alle attese degli analisti che scommettevano su quota addirittura 180.000. C'è intanto, anche se il mercato la considera relativamente, una importante operazione di integrazione che riguarda il comparto farmaceutico negli Stati Uniti, dove il colosso farmaceutico Bristol Myers Squibb ha annunciato che acquisterà la società biofarmaceutica Celgene in contanti e azioni, un'operazione che vale $74 miliardi. Il mercato ha accolto in maniera contraddittoria l'operazione perché Bristol Myers a Wall Street va molto male, i titoli perdono più di 12 punti percentuali, mentre Celgene vola del 28%. E per le notizie che abbiamo dato poco fa, Apple invece affonda in borsa, vi do la quotazione, la variazione percentuale in questo momento, -9,21%. Il gruppo, con un messaggio peraltro per qualcuno a sorpresa da parte del numero uno Tim Cook, ieri sera ha rivisto al ribasso le stime per i ricavi del primo trimestre a $84 miliardi. Il colosso di Cupertino spiega la revisione con un impatto significativamente maggiore della debolezza debolezza di alcune economie emergenti. È evidente che si punta il dito sull'allentamento della Cina per la revisione a ribasso appunto di queste stime. Le tensioni commerciali hanno messo pressione all'economia cinese, ha detto Cook in un'intervista a CNBC, riferendosi chiaramente alle tensioni fra America e Pechino. Nell'intervista Cook ha cercato anche di spazzare via i timori sul fatto che il gruppo che lui guida possa essere in parte vittima in Cina di un boicottaggio a causa delle tensioni con gli Stati Uniti. Solo una piccola parte, ha detto Cook, commentando la revisione a ribasso appunto delle stime per i ricavi. E quindi questo è quanto è successo ieri, e oggi abbiamo visto appunto quanto sta perdendo il titolo in borsa, trascinando con sé tutta la tecnologia internazionale. Andando intanto alle notizie di casa nostra, è risalito notevolmente oggi lo spread fra BTP e Bund, l'abbiamo detto poco fa, 270 punti base. Altra notizia riguarda i titoli di banca Carige, che restano sospesi a tempo indeterminato dalle negoziazioni di borsa. Ieri sera con Andrea Fontana di Radio Cori, il Sole 24 Ore, avevamo ventilato l'ipotesi che la sospensione potesse essere circoscritta sulla giornata di ieri, invece così non è purtroppo, e il titolo appunto è sospeso fino a nuova decisione, sicuramente fino a quando ci sarà il regime di amministrazione straordinaria, perché è peraltro una circostanza di amministrazione che riduce gli obblighi informativi al pubblico, e quindi i ridotti obblighi informativi al pubblico non garantiscono, dice la Consob, la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, e quindi sospensione fino a nuovo ordine delle negoziazioni. Intanto sono intervenuti anche i membri del governo, il vicepremier Luigi Di Maio ha detto: stiamo seguendo con molta attenzione la vicenda, e si è detto anche non preoccupato, bene per lui, di quanto sta avvenendo. L'ultima notizia, prima di andare al reddito di cittadinanza: negli ultimi 5 anni, fra il 2013 e il 2018, il settore dell'artigianato, che in Italia conta oltre 1.300.000 imprese, ne ha perse quasi 100.000. E quanto risulta dall'ultima fotografia scattata da Union Camere e Infocamere, che sottolinea però come si stiano affermando nuovi mestieri a scapito di alcuni dei più tradizionali. Per le notizie in breve è tutto, andiamo al primo tema di oggi. Giorgio Pogliotti, il Sole 24 Ore, buonasera Giorgio. Sì, buonasera a voi. Allora, definite le risorse, 7 miliardi e 100 milioni di euro per il 2019, il reddito di cittadinanza inizia l'iter per il via libero definitivo programmato per il via libero definitivo che è stato programmato per il 1 marzo. Una decina di passaggi burocratici, a cominciare dall'inserimento in organico di 4.000 nuovi dipendenti dei centri per l'impiego, che dovranno gestire tutta questa grande operazione, ma che soprattutto dovranno fare da tutor, ribattezzati i navigator. 5 milioni di potenziali beneficiari che potranno presentare, questo sarà il primo passo da fare per coloro che hanno in teoria il diritto a questa prestazione di sostegno, appunto la loro domanda telematica a Poste Italiane. Io vedo qua già subito, Giorgio, una prima criticità: sono delle persone, questi 5 milioni di appunto nuclei familiari o individui in difficoltà economica, che non sempre hanno gli strumenti anche per utilizzare le tecnologie per fare questa domanda. Tante volte è difficile anche per noi, figuriamoci per chi ha un po' di difficoltà. Questo aspetto ovviamente non è il primo ad essere sottolineato, ci sono ancora altre criticità rispetto a tutta questa operazione, però la manovra di bilancio dice che si è quasi pronti a partire, quantomeno c'è quasi la certezza. Allora, che cosa puoi dirci a questo proposito? Innanzitutto va fatta una premessa, che attendiamo ancora di conoscere il decreto che è atteso, il governo l'ha annunciato per la ripresa dei lavori subito dopo l'Epifania, il decreto appunto che conterrà poi nel merito le misure appunto del reddito di cittadinanza. Quindi quello che, di cui parliamo noi adesso sono delle ipotesi, una bozza di cui siamo in possesso, però appunto bisogna aspettare che venga varato ovviamente il decreto. Questa è una spiegazione che l'ho fatta, perché venga varato dal Consiglio dei Ministri per conoscere poi il testo definitivo. Quindi parliamo appunto comunque delle ipotesi di lavoro, che sono abbastanza, insomma, il lavoro di tecnici è concluso, quindi il passaggio a questo punto è un passaggio politico, strettamente politico, diciamo, quello che dovranno decidere. Ci sono sicuramente molti aspetti, molte criticità che dovranno essere, no? Anche perché si tratta di uno strumento relativamente nuovo. relativamente nuovo, perché c'è un precedente che è il reddito di inclusione, che è stato introdotto dal precedente governo, e di cui in parte il reddito di cittadinanza rappresenta, diciamo, una estensione. 5 milioni sono la platea potenziale, diciamo, no? Gli individui dovrebbero essere 1,3-1,4 milioni, anche se la ragioneria dello Stato ha stimato che poi non tutti lo utilizzeranno. Il calcolo che hanno fatto era, diciamo, di raggio al 90%. Anche perché c'è la questione, Giorgio, della card, no? Che è quello strumento su cui verrà caricato l'importo che sarà destinato, calcoli fatti una volta stabilito l'ISEE e di quanto si ha diritto, perché non per tutti ci saranno disponibili appunto i famosi 780 euro di cifra iniziale che abbiamo detto, ma l'assegno medio in realtà si calcola dovrebbe attestarsi poco sotto i 500 euro al mese, per cui anche questo un pochino complicherebbe la situazione, ma in ogni caso fino ad ora anche altri strumenti di sostegno al reddito sono passati attraverso questa via, questa modalità. Sì, allora, diciamo, l'interfaccia saranno quindi le Poste italiane, sì, come hai detto tu, saranno le Poste italiane, e invece l'ente valutatore delle condizioni, diciamo, di ciascuno di noi saranno le, invece, l'INPS. Quindi il primo passaggio si farà presso gli sportelli delle Poste italiane per appunto fare la richiesta, poi sarà invece l'INPS a dire se uno effettivamente ha diritto o no, e riceverà appunto quindi dal 1 marzo le Poste italiane. Va a fare chi ritiene di poter avere di essere nelle condizioni, cioè di avere un ISEE sotto i 9.360 euro, tutta una serie di altri paletti che abbiamo oggi ben spiegato sul quotidiano, sul Sole, ebbene può fare richiesta, però appunto poi sarà l'INPS a dire se effettivamente ne ha diritto e di quanto ha diritto, perché di fatto sostanzialmente il reddito di cittadinanza consiste in una misura che è parzialmente di politica attiva del lavoro, sì, di azione del lavoro, ma anche di inclusione per persone con disagio sociale, tant'è che gli strumenti, diciamo, attraverso i quali viaggia questo reddito di cittadinanza sono sostanzialmente tre. Cioè, nel momento in cui si ha il via libera da parte dell'INPS ad ottenere questo assegno, sono tre le opzioni in campo, diciamo, entro che poi si dovranno fare nel mese di maggio. Si potrà ricorrere o a un patto di lavoro, cioè recandosi a un centro per l'impiego, un'agenzia per il lavoro privata, a stipulare questo patto di lavoro, impegnandosi quindi ad accettare le offerte di lavoro che vengono, appunto, che dovrebbero arrivare appunto da questi clienti, o un patto di formazione con l'impresa, cioè l'impresa che sostanzialmente ti assume e quindi a sua volta incamera, diciamo, le mensilità rimanenti appunto del reddito di cittadinanza, oppure la terza opzione è un patto di inclusione sociale, che è destinato appunto a tutta quella platea invece di persone che sono in situazioni di forte disagio sociale, che difficilmente sono occupati, perché magari hanno problemi di alcolismo, perché hanno problemi di, appunto, proprio di disagio sociale. E questi dovranno poi prendere degli impegni per poter appunto beneficiare. E forse questa, va detto, è la parte un pochino più complessa, perché poi bisognerà vedere i comuni, i loro enti operativi, come si attrezzeranno per individuare quelle professioni a cui destinare queste persone che andranno a colmare quei servizi appunto di pubblica utilità. E poi c'è tutto il tema del dove ti mando a lavorare, che proposta di lavoro ti faccio, la questione dei entro i 100 chilometri, e se rinunci a tre proposte che ti vengono formulate, perdi il diritto anche all'assegno, no? Giorgio? Mi permetto di dire che la parte che ritengo sicuramente più complessa, oltre al discorso dell'inclusione sociale, che tutto sommato però, diciamo, già è, come dire, è un'attuazione di una misura già esistente, è un'attuazione estesa di una misura già esistente. Quello che invece a me personalmente preoccupa di più, ma non semplicemente i tecnici, gli esperti, è tutto l'aspetto politico, perché io ho fatto un viaggio per il centro dell'impiego, ma tutti, diciamo, gli ascoltatori che hanno avuto la sventura appunto dovessi appunto andare nei centri per l'impiego, sanno che, a parte qualche rara eccezione, in gran parte dei casi sono appunto assolutamente impreparati, certo, a svolgere questo compito di incontro delle domande e offerte di posti di lavoro. Quindi questa è la scommessa più grossa, e sinceramente in tempi così ravvicinati del varo di questa misura, Esatto, infatti qualcuno esprime anche una forte perplessità in questo senso. Ci aggiungo anche un ulteriore tema di criticità che solleva un ascoltatore, Giorgio, che dice: ma con che criterio saranno assunti i 4.000 tutor previsti per i centri per l'impiego che dovranno aiutare queste persone nella loro reinserimento appunto sociale, reinclusione sociale, quanto percepiranno? Ma adesso insomma lo stipendio ci sembra un secondo problema, il tema è se saranno 4.000 persone preparate ad esercitare anche a loro volta un mestiere così delicato. Che ne dici, Giorgio? Poi ti lasciamo. No, c'è un grossissimo problema, nel senso che noi abbiamo una dotazione nei centri per l'impiego, sono in pochi, si sono occupati di tutt'altro, si sono occupati di pratiche amministrative e non di incrocio tra domande offerte di lavoro. E anche con quelli in arrivo, che non si sa neanche quando arriveranno, questi altri 4.000, parliamo sempre di un organico di 12.000 persone, in Germania sono 100.000. Cioè, ci hanno messo degli anni per mettere a rodaggio questa macchina. Quindi sarà molto difficile, attualmente è molto raro ottenere un'offerta di lavoro, diciamo, dell'impiego. È molto difficile pensare che ci potranno essere le famose 3 offerte di lavoro, no? Che vanno accettate appena la perdita. Certo. Giorgio, ti saluto perché tra l'altro il collegamento telefonico, anche se ovviamente i punti qualificanti di quello che hai detto li abbiamo sentiti, però non è ottimale. Ti ringraziamo per essere stato con noi. Vi lascio con questo approfondimento su questa parte, con le dichiarazioni di oggi di, anche in questo caso, come abbiamo già detto prima, lo abbiamo citato già prima, il vice premier e ministro del lavoro Luigi Di Maio, che ha detto che gennaio sarà il mese in cui si farà il decreto per istituire il reddito di cittadinanza. Lo anticipava poco fa Giorgio Pogliotti, ma anche appunto ribadito che si tratta di un provvedimento, anche qua tema che sicuramente non mancherà di far discutere, solo per i cittadini italiani. La legge, come abbiamo sempre detto, è una legge che riguarda il reddito di cittadinanza per coloro che sono cittadini italiani. 8 secondi sicuramente molto chiari, non tanto dal punto di vista della qualità del contributo quanto appunto del contenuto del contributo. Allora io direi che a questo punto possiamo fermarci per la nostra pausa, dopodiché andremo anche a raccontarvi di questa giornata di borsa che è stata di nuovo piuttosto difficile rispetto al resto del mondo. Il Milano limita le perdite, meno 0,42%, fra 10 minuti avremo la chiusura consolidata. Pausa, a tra poco. Focus Economia. Sono le regole barisoniane per ovviamente essere seguiti dalla musica ad accompagnare le notizie del giorno. Adesso, a parte gli scherzi, ero anche un po' distratta da quello che leggo dalle agenzie. L'ANSA stima, fa un calcolo preciso su quanto Apple abbia bruciato dal suo record del 3 ottobre scorso, 446 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato andata in fumo con ovviamente le perdite che si sono moltiplicate in queste ore. Al momento Apple in borsa capitalizza 682 miliardi di oggi e quindi insomma è un bilancio certamente pesante. Solo 4 colossi dello Standard & Poor's 500 hanno in questo momento una capitalizzazione di mercato superiore ad Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, cioè Google, e Berkshire Hathaway. Ceo Condina, il Radio Corri del Sole 24 Ore, buonasera. Limitiamoci un po' all'esame della seduta di Piazza Affari che ha certamente risentito di tutto ciò. Non abbiamo ancora la chiusura, si consoliderà la prestazione degli indici fra qualche minuto. Intanto al momento il FTSE MIB incassa un meno 0,47% ed STM grande protagonista in negativo della seduta. Ceo. Ciao, buonasera a tutti. Beh, sicuramente è stata una seduta difficile per i listini europei e ovviamente anche per Wall Street, come hai ricordato tu, Wall Street che è arrivata anche a perdere quasi il 3% dopo l'apertura. Milano, bisogna dire che assieme a Londra è stata il listino che ha tenuto meglio rispetto agli altri, anche perché Parigi e Francoforte si avviano a chiudere la seduta con una perdita di un punto e mezzo, Milano e Londra invece sono sotto di circa mezzo punto percentuale, anche qualcosina meno. Perché questo? Sicuramente a Milano ci sono dei fattori che hanno, diciamo, favorito la performance, c'è una buona performance del comparto assicurativo a partire da Unipol che guadagna il 4,3%, va bene anche, c'è un rimbalzo di Telecom Italia che fa più 2,7% e riconquista la soglia degli 0,5 euro, e c'è un'ottima performance anche di quelle che sono state le new entry nel FTSE MIB, cioè Amplifon più 4,6%, ancora la Juventus più 1%. Ricordiamo che questi titoli sono entrati nel listino principale dopo la pausa natalizia. Al male posto di Mediaset Banca Mediolanum, se non mi ricordo male, vero? Corretto. Male invece ST, che ovviamente risente del ciclone di Apple. ST perde oltre l'11%, male anche la moda, e questo è un po' legato a quelli che sono... Esatto, la tematica cinese, immagino, sì, perché sì, Moncler, tematica, Salvatore Ferragamo... La tematica cinese, i timori per un rallentamento diciamo economico di quell'area geografica e più in generale a livello globale, quindi Moncler ha ceduto il 4,5%, Ferragamo perde il 2,4% e Ferragamo diciamo che vive un momento negativo da diverso tempo. Molti ricambi ai vertici, è arrivato da poco un nuovo direttore finanziario, perché l'altro era stato appunto si era dimesso qualche giorno prima, quindi insomma sono momenti anche di ricambi continui per il gruppo. Assolutamente, poi non più tardi di un anno fa aveva anche messo, diciamo, aveva anche avvisato gli investitori riguardo alla profonda cautela per quanto riguardava le previsioni sull'andamento del business. Ricordiamo che Ferragamo in passato era arrivata anche vicino a quota 30 euro, oggi ne vale 17. Spread fra BTP e Bund, intanto qua tema che al momento la giornata sta chiudendosi, quindi forse non impatta per il momento sull'andamento di borsa, 274,8 punti base, ieri eravamo a 250, insomma dico solo questo, colpa anche del rendimento del Bund tedesco che continua a scendere, quindi oggi è l'effetto da questa parte che determina questo allargamento, ma di fatto insomma non è che ci piaccia molto questa cifra. Intanto per Milano meno 0,6% in questo momento sul FTSE MIB, c'è o altri temi da segnalare? Ma direi di no, il tema del Bund è molto, molto interessante, perché oggi c'è stata una corsa ai beni rifugio. Sull'obbligazionario ci sono state una serie di vendite molto forti, il Bund è rimasto sostanzialmente stabile e questo ha determinato, diciamo, un'impennata dello spread nei confronti del BTP italiano. Anche l'oro, nel tema della corsa ai beni rifugio, ha toccato i massimi degli ultimi 6 mesi. Allora, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona un ascoltatore serata. Ci chiede il rapporto di cambio euro-dollaro, ha ritoccato 1,14 proprio poco fa, adesso 1,13,98. L'altro caso molto delicato di queste ore, Banca Carige, commissariata da ieri per decisione della Banca Centrale Europea. I commissari straordinari sono praticamente gli ex vertici del gruppo, Fabio Innocenzi, amministratore delegato, Pietro Modiano, presidente della banca, e proprio ieri, Fabio Innocenzi ha rivolto un messaggio ai dipendenti di Carige dopo la sua nomina appunto a commissario. Vi proponiamo questa parte. Io non sarò più amministratore delegato e Pietro Modiano presidente, ma inizio un'amministrazione straordinaria sempre con me, con Pietro Modiano e con il professor Lehner, che conoscerete fra poco, appunto nella veste di commissari. Che cosa cambia? In realtà cambia poco, cambia che avremo una governance più snella, perché meno organi collegiali e quindi la possibilità di prendere decisioni al vostro servizio più velocemente. Non cambiano i nostri obiettivi, innanzitutto non cambia l'obiettivo di de-risking della banca, l'obiettivo di rafforzarla patrimonialmente, non cambia la ricerca di un partner strategico e soprattutto non cambia, anzi vuole trovare nuova energia il rilancio commerciale. Tutte queste cose, come sapete, saranno gli elementi fondanti del piano industriale che è già partito, che è in preparazione. Quindi insieme a voi e con voi, perché più che mai diventa fondamentale il vostro ruolo, il ruolo di tutti i colleghi di Carige, tutti insieme dovremmo dedicare tutti i nostri sforzi ai clienti e ai territori nei quali siamo. Il nostro mestiere è questo, far capire che questa nuova stabilità, maggiore stabilità ma anche maggiore snellezza che abbiamo, devono essere usate per voi e insieme a voi per i clienti e per il territorio. Allora, lo scopo del commissariamento, e questa mattina lo descrivono molto bene tutti i giornali, è quello di rimettere la banca in sesto, e le ipotesi su cui potrebbero lavorare i commissari sono a questo punto due: o la creazione di una bad bank, come già successo in passato per altre situazioni di dissesto finanziario bancario, e di una good bank, successo anche per le quattro banche risolte nel novembre del 2015, oppure la risoluzione secondo le regole del bail-in. Però questa circostanza è stata anche in questo caso smentita da Innocenzi. È stato intervistato da una TV e al giornalista che gli ha chiesto se la banca è a rischio default, bancarotta, lui ha detto assolutamente no, la banca è ben patrimonializzata, adesso ha una governance chiara, quindi i nostri clienti possono contare sulla loro Carige, sulla loro Cassa di Risparmio di Genova. Il commissariamento della BCE dimostra fiducia nell'azienda, anche Raffaele Lehner, il terzo commissario di questo triunvirato, queste sono appunto le parole di questo terzo commissario Raffaele Lehner, sempre in un messaggio ai dipendenti della banca. Questo provvedimento della BCE è in realtà un provvedimento che dimostra fiducia nell'azienda e fiducia nell'attività di risanamento che è stata iniziata nell'ultimo periodo. E in effetti è del tutto anomalo, anzi per quanto ne sappia io è la prima volta in assoluto che in una terna commissariale sono confermati i due vertici dell'istituto prima del commissariamento. Questo vuol dire che c'è fiducia, che c'è anche una presa di posizione abbastanza forte, come dire, una esposizione da parte della vigilanza europea che fa questa sorta di endorsement verso la banca. È una fiducia che anch'io ho sentito arrivando qui a Genova e sono contento di essere della partita, spero di aiutare alla risoluzione veloce dei problemi che si sono manifestati nell'ultimo periodo. E intanto, insomma, la fiducia viene ovviamente naturalmente ostentata dai tre commissari, la Consob però intanto nel frattempo, come vi abbiamo anticipato poco fa, ha deciso di sospendere a tempo indeterminato al momento i titoli in borsa, perché questa condizione appunto di commissariamento riduce gli obblighi informativi e quindi non rende trasparenti completamente le contrattazioni, quindi mette in una condizione di poca disponibilità di informazione appunto gli azionisti, che vengono considerati più protetti dal congelamento delle azioni, delle quali però non possono disporre, quindi questo sarà sicuramente un bel problema. Prossimamente ci fermiamo, ma ci fermiamo solamente perché con la colonna sonora adeguata, a Roberta dobbiamo cambiare argomento. La prendiamo morbida con la musica, perché la giornata americana è talmente dura che va così un po' ammorbidita anche con un'adeguata colonna sonora. Marco Valzania, corrispondente da New York del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, è la giornata di Apple, non in termini positivi, ma in termini molto negativi. Allora, rifacciamo un po' un punto della situazione, l'ordine cronologico delle notizie che oggi hanno determinato questa reazione del mercato. Esattamente, Tim Cook, che cosa ha detto ieri sera al punto da provocare questo terremoto in borsa? Marco. Più che le parole esatte è stata la sostanza del suo messaggio e il fatto che si è trattato di un messaggio molto particolarmente raro per Apple. Tim Cook ha tagliato le stime per l'ultimo trimestre di Apple, ammettendo che le previsioni, soprattutto sul grande mercato cinese, erano troppo ottimiste a questo punto e quindi diciamo ha ridotto le attese soprattutto di vendita complessive attribuendo appunto anzitutto a questa brusca frenata sulla piazza di Pechino. Per Apple è un allarme bilancio, un allarme trimestrale rarissimo, da 15 anni praticamente, quindi nell'era dell'iPhone non era mai accaduto un simile allarme profitti, allarme fatturato. Questo spiega l'impatto che ha avuto sul mercato. L'altro fattore che lo spiega è l'influenza che tuttora un'azienda come Apple ha quale barometro un po' così dell'avanguardia della corporate America nel suo insieme e il timore già presente che comunque sia in atto, sia in arrivo, in agguato, una frenata delle performance delle grandi aziende americane nell'anno appena iniziato. Questo chiaramente aumenta, moltiplica il nervosismo su mercati già con i nervi scoperti e si è tradotto oggi in queste forte vendite che hanno contagiato da Apple poi l'intero settore tecnologico, ma non solo, e quindi il calo complessivo degli indici che ha raggiunto e superato durante anche il 2% per tutti e tre i grandi indici americani. Marco, ti fermo un attimo perché adesso andiamo a sentire il traffico, poi torniamo appunto con ulteriori commenti rispetto a quello che stiamo vedendo sul mercato americano da qualche settimana molto enfatizzato tra ieri e oggi. A tra pochissimo. Focus Economia. E allora stiamo commentando con Marco Valsani da New York le notizie che riguardano Apple, ditela come volete, come più vi fa piacere, non cambia la sostanza delle notizie fornite ieri sera dal colosso di Cupertino che ha rivisto a ribasso le stime per i ricavi del primo trimestre, 84 miliardi di dollari che sono cifre di tutto rispetto, però ben al di sotto dei 91 miliardi attesi dagli analisti. Ma Tim Cook ha fatto anche sapere come intenderà, se intenderà farlo, correre ai ripari rispetto a questo, perché basti vedere quello che ha bruciato in borsa in termini di capitalizzazione la sua società. Non lo so, che cosa si è saputo oggi, qualche cosa di ulteriore rispetto al suo pensiero su quanto successo negli ultimi minuti, Marco? La sostanza della strategia di Apple rimane invariata. Apple sta cercando di spingere su tutti i cilindri del suo business, il suo motore, e quindi ha cercato progressivamente di diversificare le fonti di entrate e di profitto. Oggi per esempio il segmento dei servizi che comprende appunto dall'iCloud ai servizi di pagamento, Apple Pay, a altri servizi di abbonamento musicale eccetera, oggi rimane in forte crescita. E per esempio nelle previsioni di riviste di Apple di ieri, complessivamente al ribasso, quel segmento in realtà viene definito come un segmento che dovrebbe sorprendere a positivo. Però questa strategia oggi non basta a compensare i venti contrari, questo è il grosso dilemma. E i venti contrari dell'economia globale, i venti contrari delle piazze emergenti, i venti contrari delle tensioni commerciali che potrebbero diciamo ancora irrisolte, che potrebbero anche aggravarsi nel 2019, in particolare proprio tra Stati Uniti e Cina. Ecco, Apple, come dicevi tu, mantiene dei livelli delle cifre di performance di tutto riguardo anche con queste revisioni, quindi diciamo non siamo davanti a un collasso diciamo del business, ma il segno, il sintomo che l'annuncio di Apple ha portato alla ribalta è appunto un sintomo complessivamente preoccupante per gli attuali livelli del mercato azionario. Infatti, tema che sottolineano molti ascoltatori, ma che sottolineiamo anche noi da tempo. Per chi è appassionato del tema, va a guardare i grafici del mercato americano. Abbiamo un grafico che stava assumendo quasi una direzione verticale, Marco, no? Per cui prima o poi forse una scusa per un ritorno, una marcia indietro importante doveva essere trovata, e forse proprio questa in questi giorni l'esasperazione della la guerra commerciale con la Cina, il rallentamento cinese che è un grande motore di crescita mondiale, quindi tutta una serie di fattori che in qualche maniera uno stop doveva determinarlo. Certo che forse qualcuno non immaginava una virata così imponente. Sì, esatto, sicuramente ad aggravare, diciamo, l'impatto su Apple e poi quindi a cascata è stata un po' la sorpresa, proprio perché Apple non ha, diciamo, nel recente passato, negli anni, non ha preparato gli investitori a sorprese di queste dimensioni negative. Appunto, come dicevamo prima, era dal 2002 che non c'era un simile, diciamo, allarme sui conti di Apple, e quindi, diciamo, l'impatto è stato amplificato proprio da questa, così, da quella che è parsa come una sottovalutazione finora della frenata complessiva del quadro economico del business, e quindi, diciamo, ha messo in dubbio la capacità di Apple di rispondere adeguatamente, cioè di fare i conti adeguatamente, di potersi riscattare con nuova crescita. Diciamo, questo rimane il dilemma di fondo che attorno ad Apple, cioè se saprà in qualche modo sganciarsi dalla dipendenza dall'iPhone sul mercato, cioè saturo e sempre più saturo degli smartphone e con prodotti sempre più cari che quindi tendono comunque a frenare le prospettive di crescita e a sviluppare nuove spinte innovative che le consentano a questo punto di rimanere, di mantenere così questa avanguardia. Certo. nel comparto tecnologico complessivamente sulla corporate America. Marco, ti chiedo ancora un minuto di tempo. Abbiamo molte altre notizie che sono arrivate oggi dagli Stati Uniti. Alla vigilia della divulgazione del dato sulla disoccupazione americana di dicembre, che verrà pubblicato domani, abbiamo avuto le anticipazioni dell'agenzia ADP, e a quanto pare questa anticipazione è piuttosto positiva, perché in dicembre il settore privato, domani ci sarà l'economia tutta, ha creato 271.000 posti di lavoro, se ne aspettavano 180.000. Abbiamo poi un dato importante che riguarda i prezzi delle case a Manhattan, un mercato immobiliare che è considerato sempre a sé stante, del tutto indipendente dal resto del real estate americano. Abbiamo il prezzo medio degli appartamenti a Manhattan che cala sotto $1 milione per la prima volta negli ultimi 3 anni. Anche qua forse abbiamo un altro segnale di scricchiolio per l'economia statunitense, a far da contraltare al tutto una grande operazione di integrazione fra due società nel comparto medico biofarmaceutico. Bristol Myers effettua una operazione di acquisto della società biofarmaceutica Celgene, un'operazione da $74 miliardi, grazie alla quale nasce un colosso nei trattamenti contro il cancro e le malattie immunologiche. E insomma, tanti aspetti di questa economia americana di contraddizione. Sì, sicuramente, esatto, aspetti contrastanti, diciamo, cercando di, così, provando a tirare le fila un po', sicuramente, diciamo, i dati attuali macroeconomici non sono negativi, confermano una solidità dell'economia americana, in particolare il mercato del lavoro, per quanto, diciamo, un'economia che dovrebbe frenare, che al momento almeno ancora regge. Però, ecco, aumentano i segnali di fatica, di affaticamento, per cui, come dicevi, il mercato immobiliare è uno dei, così, dei segnali, rappresentano i segnali a Manhattan ma anche altrove, ha mostrato segnali particolarmente così sottotono, e oggi è uscito anche un dato manifatturiero su dicembre, l'indice dei direttori acquisti delle aziende manifatturiere americane, che in dicembre ha comunque deluso, quindi General Motors ha riportato comunque un declino nelle vendite di auto sul mercato statunitense nell'ultimo scorcio dell'anno, del 2018, e quindi, diciamo, questo nell'insieme, ecco, sì, il quadro economico oggi rimane sicuramente confortante, ma le ombre sul futuro, infatti, cominciano le nuvole ad allungarsi. Le nuvole. In questo senso anche il merger di Bristol con Celgene, ecco, rappresenta una continuazione di un trend a forti merger negli Stati Uniti, avvenuto nell'ultimo anno, tra l'altro particolarmente concentrato nel settore sanitario e biotecnologico, dove ne sono avvenuti davvero parecchi. Però anche lì, in un certo senso, rappresenta comunque un tentativo di trovare di creare sinergie, quindi di contenere i costi e di trovare nuove strade di crescita. Ecco, il nuovo gruppo avrà ben 9 prodotti con vendite superiori al miliardo di dollari, 9 farmaci, e ha soprattutto in canna, da quanto ha annunciato, la capacità di avere in canna assieme ben 15 nuovi prodotti con potenziali, certo, potenziali entrate multimiliardarie. D'altronde questo, ecco, è un settore tradizionalmente anticiclico che viaggia appunto con generalmente sollecitazioni diverse rispetto ad altri comparti. Marco, devo lasciarti perché ho pochi minuti di tempo per l'ultimo tema di oggi. Grazie per essere stato con noi, magari domani ci risentiamo, che ne sai che cosa succede. Buona giornata. A te buona giornata. Buona giornata. E adesso, ahimè, tocca pure a me parlare di calcio. Gianni Dragoni, il Sole 24 Ore. Considerato come va il mercato, non ci rimane che investire in calciatori. Certi investimenti in calciatori possono essere molto redditizi. Non mi dispiacerebbe portarmi Cristiano Ronaldo a casa. Solo che se non sei una squadra di calcio, proprio questo tema è stato toccato, è vietato, anche se ci sono dei modi per aggirarlo, cioè è vietato che ci siano dei singoli che sono proprietari di un calciatore. Mannaggia, anche se alcuni procuratori niente, probabilmente hanno fatto degli accordi sotto opachi e hanno una partecipazione. Allora, tutto questo ovviamente per scherzare, gli ultimi minuti di tempo dedicati a questa analisi rilasciata da KPMG Football Benchmark, che stima, che stimola, elabora delle valutazioni molto dettagliate su quanto valgono i calciatori, e si parla di valori, Gianni tu lo spieghi molto bene stamattina sul Sole 24 Ore, che sono più complessivi rispetto al prezzo che noi veniamo a conoscere quando ci sono le fasi di calcio mercato. Allora, in che cosa consiste questa classifica, chi vince, chi perde? Facci un po' una fotografia di quello che hai scoperto. Due parole sul metodo, cioè come viene determinato il valore di questi calciatori. Si tratta di stime sempre, però basate su elementi predefiniti, identificati. L'età innanzitutto, quindi un calciatore a parità di valore tecnico, di abilità, più è giovane più vale, perché la società che lo acquista, che investe, ha più tempo per ammortizzare l'investimento. Poi c'è la durata del contratto, più il contratto è lungo e più aumenta il valore del calciatore, perché c'è più tempo per ammortizzarlo. Poi ci sono le prestazioni sportive, i risultati della squadra e anche le sanzioni disciplinari sono state considerate. Tre calciatori valgono più di 200 milioni di euro ciascuno. 200 milioni di euro è un valore superiore a quello di molte squadre di calcio. Il primo è Neymar, brasiliano, 26 anni, attaccante adesso al Paris Saint-Germain, vale circa 226 milioni di euro, numero uno del mondo secondo KPMG Football Benchmark. Al secondo posto il ventenne francese Mbappé, stella della nazionale francese dei mondiali di calcio, sul quale peraltro la Juventus avrebbe, pare, messo gli occhi, motivo anche per il quale ieri il titolo ha corso molto in borsa, chiusa parentesi. Gianni. Sì, ci sono queste indiscrezioni e non è detto, comunque voci, ipotesi, sicuramente tanti vorrebbero averlo se potessero permetterselo. E in quattro mesi il suo valore, secondo KPMG, è aumentato di 25 milioni, cioè rispetto all'inizio del campionato. Pazzesco. E adesso è a 215 milioni, e ha superato di slancio Leo Messi, che a 31 anni viene valutato ancora 203 milioni di euro, un po' meno dell'inizio del campionato. Mm-hmm. La sorpresa forse per molti è che, esatto, Cristiano Ronaldo, che probabilmente è il più famoso del mondo, è sicuramente quello con il commerciale di marketing maggiore, non è nei primi 10, non solo non è davanti a Leo Messi, ma non è nei primi 10, è dodicesimo, valutato 107 milioni di euro. Stavo valutando, insomma, varrà l'età per Cristiano Ronaldo, ormai ha 33 anni, ma comunque Messi ne ha 31, per cui forse non è quello il parametro che discrimina in questa differenziazione così importante di valore. Sicuramente sorprende in effetti il rapporto tra Cristiano Ronaldo e Messi, che sia così molto di meno. Probabilmente incide anche, prima ho detto che tra i fattori conta anche la squadra in cui un calciatore gioca, e quindi probabilmente il Barcellona, che ha una ricchezza, un valore marchio per il momento superiore alla Juventus di Cristiano Ronaldo, quindi ha un appeal maggiore. Devo dire che Ronaldo non era considerato nei primi 10 neppure quando era al Real Madrid come valore, quindi tra l'altro nessun giocatore del Real Madrid è tra i primi 10, questa potrebbe essere una buona notizia per le squadre italiane. Gianni, noi abbiamo terminato, grazie per queste curiosità, insomma, che ci hanno consentito anche di chiudere in leggerezza, ma non tanto economica, a giudicare dalle cifre, questo programma. Grazie per essere stato con noi. Focus Economia anche stasera termina qui, ma ahimè per voi mi tocca tornare anche domani e vi tocca sentirmi anche domani. Buona serata a tutti.